due osservazioni sui testi. C'è una specie di predominanza del libro. Esdra apre il libro in presenza di tutto il popolo. Gesù nella sinagoga prende il libro, il rotolo, del profeta Isaia, apre e legge. Anche noi, stamattina, apriamo il libro, abbiamo aperto il libro, abbiamo ascoltato. Faccio notare che ancora oggi, in certe regioni del mondo, tra l'altro il più povero, i cristiani, insieme agli ebrei e insieme ai musulmani, sono chiamati quelli della religione del libro. Allora, assume un senso profondo il gesto di Gesù che legge il profeta Isaia. Arrotola il libro, lo riconsegna, solo che dice, solo che la cosa più forte è: oggi queste cose scritte nel libro si sono adempiute. Cioè, ci sbilenca un po', eh? Poi vediamo perché. Dunque, Gesù mette fine alla religione del libro. Dunque, invece di un libro a cui rifarsi, abbiamo una persona a cui riferirci, appunto Gesù Cristo. Dunque, l'adempimento del messaggio oggi diventa vero punto di riferimento. Una seconda sottolineatura: scrive a Teofilo, che probabilmente è un nome di, così, di simpatia, perché Teofilo vuol dire amato da Dio. Luca ha, come dire, per una serietà, ha così nel cuore suo storico, vuol confermare la fede. Però per confermare la fede si impegna a raccogliere le testimonianze di chi ha visto, ha creduto, ha seguito Gesù. Così dà una buona notizia. Anche se Gesù non sarà molto ascoltato, allora, e naturalmente lo sappiamo anche oggi. Quindi c'è la domanda: ma perché a Nazaret fallì l'annunzio dell'anno di grazia? Accetto al Signore, l'anno accetto al Signore. Perché non risuonò il, non è sfoggio, è tanto per catalizzare un attimo la precisazione, perché allora non risuonò quello che viene chiamato il Jobal, cioè il suono gioioso del corno festivo, ma fu il Prinos, l'ira contro colui che recava la lieta notizia. Sono due parole che mettono, come dire, sollecitano noi a fare, almeno io ne propongo due di queste riflessioni. Intanto la prima è che la parola di Isaia riempie il silenzio della sinagoga, gli occhi fissi su Gesù. Sembra che, se ci avete badato al racconto, sembra che Luca racconti al rallentatore: prese, srotolò, lesse alta voce, si fermò, si sedette, dette, c'è tutto il rallentatore, cioè proprio per descrivere una scena che ha un messaggio forte da, da trasmettere. Oggi la parola si realizza alle vostre orecchie. Egli, quindi, è la parola. È lui l'uomo sognato da Isaia, descritto appunto, libero come nessuno, dall'occhio luminoso, povero e gioioso. I suoi giorni sono benevolenza e accoglienza. Non vi richiama quello che sta scritto nel libro della Genesi su Adamo? Adamo vuol dire fatto di terra, no? È un nome simbolico. Ecco, dentro nel giardino dell'Eden, Adamo sta bene. Poi dopo c'è la tragedia. Il regno di Dio è un regno per gli uomini e questo sta a cuore a Gesù. La parola chiave del passo letto da Gesù è libertà, è liberazione. Parola gradita ai nostri orecchi, alla sua radice il termine indica movimento, energia, creatività, attenzione, pazienza nell'evoluzione delle cose, della storia, cambiamento. E allora una seconda veloce riflessione, vorrei essere ben inteso, sconfiniamo un po'. Gesù non è venuto a portare i lontani a Dio, ma a portare Dio ai lontani, a uomini e donne senza speranza, proprio per aprirli a tutte le loro potenzialità di vita, di creatività, di relazione, di intelligenza, di capacità di amare e grande desiderio di essere amati, essere riconosciuti, che poi è il desiderio fondamentale di ognuno di noi, sentirci amati. Dunque il primo sguardo di Gesù non si posa mai sul peccato, sulle fragilità della persona. Il suo primo sguardo va sempre sulla situazione della persona, mette al centro la persona. Se rileggete il brano del Vangelo, questo traspare. Il Vangelo non è moralista, ma è creatore di uomini e donne liberi, e magari anche gioiosi, anche perché non si sentono più oppressi. Quindi la buona notizia è che Dio mette l'uomo, la donna, al centro, al punto che, passaggio un po', dimentica se stesso. No? Si fa uomo, si schiera contro tutte le oppressioni, contro tutte le chiusure, anche le chiusure che ci possono essere dentro l'anima, o la testa nostra, la coscienza di ognuno di noi, perché la storia diventi altra da quello che è. E chiudo perché è duro sentirci dire il Vangelo è di oggi, qui, con voi, per mezzo di voi, per voi, è oggi. dice Gesù, che ha vissuto la sua missione proprio a partire dalla fragilità, dalla povertà e dalla croce. Ha proclamato un giubileo che non si fa magicamente. Allora, per stare alla conseguenza del Vangelo, la nostra intelligenza, le nostre passioni del vivere pieno, la nostra fatica del faccia a faccia con le situazioni, la nostra fede, la lettura e l'interpretazione di quanto accade attorno a noi, dentro di noi, ci fa riflettere e ci fa anche agire e, perché no, ci fa anche pregare. Provo a dirlo così. Cristo, sei il Verbo di Dio, la parola, che continua a farsi carne. Sono le opere a rivelarti, ma per noi la più difficile delle beatitudini è questa, che è beato solo colui che non si scandalizza di te. Non ci resta che dire: aiutaci a credere, Signore. Gloria a Dio.